che si incatena con la passione. Non è una princesita, neppure una psichita, però una cariolita vuol dir la vita, la seduzione. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è una cariolita? Se mi guardi tu non resisto più, ti vorrei baciare. Tu mi attiri a te come può attirare una calamita. Se ti stringo un po' tu rispondi no, non mi lascia mai. Io non so capire, tu mi fai morire se mi guardi appena. Fai tremare il cuore pur al toreador che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è una cariolita? Pur il toro ahimè ti sospira, ore morirò per te. Quando la notte muore, dal tuo balcone in fiore, la strada dell'amore con un sorriso ti insegnerà. Dal tango poi ti invita, suona la chitarrita, e nella comparsita ma cariolita ti avvincerà. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è ma cariolita? Se mi guardi tu non resisto più, ti vorrei baciare. Tu mi attiri a te come può attirare una calamita. Se ti stringo un po' tu rispondi no, non mi lascia mai. Io non so capire, tu mi fai morire se mi guardi appena. Fai tremare il cuore pur al toreador che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è una cariolita? Pur il toro ahimè ti sospiro e morirò per te. Thank you.